I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, siamo in collegamento con delle compagne perché il 25 e il 26 marzo, il prossimo fine settimana in pratica, ci sarà a Napoli un incontro femminista separato, molto interessante, un incontro di 2 giorni, dal titolo Memoria come resistenza. E quindi, dato che le compagne femministe sono qui in collegamento con noi, ciao! Vorremmo, e sono loro che hanno organizzato, sono alcune di quelle che hanno organizzato l'incontro, vorremmo chiedere, fare alcune domande, prima di tutto come hanno maturato l'idea di questa iniziativa. Allora, l'idea di questa organizzare questa iniziativa viene un po' nel solco dell'interesse che ci aveva stimolato varie iniziative di questo tipo, quindi noi ci sentiamo un po' in continuità con il lavoro che tra l'altro le compagne di coordinamento avevano fatto e fanno rispetto alla questione delle donne e la violenza, che appunto poi è stato da parte loro letto su, diciamo, da varie angolature, anche in continuità con quelle compagne che hanno al di fuori dei percorsi accademici lavorato sul recupero della nostra storia rivoluzionaria femminista, quindi appunto i libri che sono stati tradotti sul tema, come ad esempio il libro delle Rose Zora, o il lavoro che appunto le compagne catalane stanno facendo ormai da qualche anno rispetto a le donne che hanno partecipato alla guerriglia e alle rivoluzioni nei paesi in cui vivevano, e che è un po' tra l'altro il modo in cui si è formato questo gruppo. Cioè, le compagne catalane invitano alcune di noi all'incontro che loro fanno ormai annualmente, che si chiama Mujeres Más Allá de las Armas, che è appunto una sorta di conferenza, incontro, in cui donne che vengono da quelle esperienze raccontano in prima persona un pezzetto della loro storia, quel pezzetto della loro storia. E diciamo che dagli atti di questo incontro scaturisce una rivista, e poi chi torna di questo gruppetto torna da questo incontro porta qui in Italia dove siamo noi e ce lo mostra. Ci sembra un'ottima idea tradurlo, perché si forma questo gruppetto che inizialmente è un gruppetto di traduzione, che poi dice: beh, forse dovremmo fare una cosa del genere anche in Italia. Bene. No, vai avanti. Vado. Noi, piuttosto che scegliere un contatto internazionale venendo da un luogo in cui comunque la scelta della violenza rivoluzionaria è stata caratteristica di una fase del movimento di questo paese, abbiamo pensato che prima ci stava di cominciare da qui, e quindi data anche la sensazione un po' di carenza che sentiamo nei confronti di voci femminili o di dissidenza di genere che parlino di quegli anni e di quelle scelte rivoluzionarie, abbiamo pensato che ci vogliamo concentrare appunto sull'esperienza delle organizzazioni combattenti italiane. Perfetto, vai avanti. Volevo chiederti le ragioni del titolo. Vabbè, appunto, riprendendo un po' quello che stava dicendo la compagna, Memoria come resistenza, vabbè, in un certo senso si un po' si autocommenta. e appunto proprio riprendendo anche la tradizione, diciamo, femminista e transfemminista per il recupero della memoria, quindi perché una delle prime cose è proprio vedere come la storia di donne e altre soggettività oppresse dal patriarcato sia sempre stata silenziata, nascosta, invisibilizzata, e quindi il fatto invece di rifarlo emergere ci sembra appunto fondamentale, ci sembra un atto di vera e propria resistenza. In particolare appunto nella storia che abbiamo scelto di trattare, che già di per sé appunto la storia delle organizzazioni della lotta armata in Italia non trova spazio se non raccontata in delle forme ovviamente di denigrazione, appunto in forme molto negative, oppure appunto viene seppellita, e quindi il fatto di recuperarla, e in particolare recuperare quella parte che ovviamente subisce una doppia invisibilizzazione, che è la parte, la voce delle compagne che hanno partecipato, hanno preso parte a questa storia e ne sono state protagoniste, ci sembra appunto importante in questo momento, ci sembra che appunto la memoria, cioè recuperare il recupero della memoria, possa essere, continua a essere un atto di resistenza. Noi siamo molto d'accordo. Nome, poi avevamo pensato anche delle cose più artistico-creative, ma alla fine abbiamo scelto di stare sul didascalico. No, noi siamo molto d'accordo su questo, perché rispetto poi alla storia, alla situazione attuale, la storia degli anni 70 e 80 è particolarmente, per la situazione nostra, è particolarmente importante, perché il potere in effetti ha operato una trasformazione dei fatti e degli accadimenti, è una lettura talmente travisata che in effetti ricominciare da lì significa riallacciare il filo rosso che ci fa capire tante cose che sono accadute adesso. Il potere in effetti ce l'ha messa tutta per travisare quel periodo di storia, e quindi vuol dire che questo per lui è molto importante, no? Assolutamente, sì. in questo momento in particolare, secondo me questa, anzi, rivangare, cioè proprio rispetto a quello che sta succedendo in questo momento, tornano dei fantasmi che vengono appunto disseppelliti, è molto indicativo, il modo in cui viene fatto è molto indicativo su questa continuità di cui anche tu dicevi. Sì, certo, anche perché non c'è soltanto una dimenticanza, c'è proprio una narrazione falsa e tendenziosa che è ancora un gradino più alto, no? Di un travisamento di fondo importante. E poi ci ha fatto molto piacere sapere che l'incontro è separato, perché noi consideriamo il separatismo una garanzia di riconoscimento e di tutela, lo riteniamo molto importante, e quindi ci fa piacere anche che ci diciate le ragioni di questa scelta, anche perché anche negli anni 70 questo tipo di discorso ha attraversato molto l'agire delle donne. Allora, noi come femministe transfemministe è comunque una pratica che utilizziamo per la nostra formazione, ma anche per creare momenti di condivisione, quindi sia su un piano pubblico che non, è comunque uno strumento che fa parte del nostro bagaglio. Noi partiamo un po' dall'idea che sia importante creare degli spazi che sono autonomi e che sono caratterizzati dalla presenza di soggettività che sono oppresse dall'eterocis patriarcato. Sì. Pensiamo che in questi spazi sia più semplice portare avanti un approfondimento del pensiero, che a persone che vivendo le stesse esperienze non hanno bisogno definire il concetto di patriarcato in modo sofisticato e teorico per convincere qualcuno, perché quelle sono le esperienze che noi siamo costrette a vivere nella nostra quotidianità. Quindi a partire da questa, diciamo, base minima di condivisione, ci piace pensare che si possano creare delle narrazioni che sono differenti, che escono un po' da questo immaginario romanticizzato e dell'eroismo, di questi personaggi un po' mistici, nel caso, diciamo, in cui la lettura che viene data sia una lettura positiva o mostrificante, cicatrizzante, nel caso che la lettura che venga data sia negativa. Quello che per noi il separatismo in questo contesto significa è l'idea che delle donne, in questo caso, che raccontano la loro storia, possano farlo in uno spazio di ascolto il più possibile scevro da queste dinamiche che sono molto peculiari di quando si prova a scrivere la storia di movimenti. Sì, infatti è vero, noi ci siamo sempre rese conto che prima di tutto lo spazio separato è uno spazio di tutela, nel senso che il discorso è molto più semplice e libero. E poi c'è anche un fatto molto importante che è il... come dire, ogni volta, almeno questa viene dalla nostra esperienza, che si parla di femminismo, o comunque che, siccome noi lo facciamo spesso, di portare il discorso fuori in un ambito misto, ci costringono a fare dei passi indietro, cioè ci costringono a riprendere dei discorsi che noi diamo per scontati e ci costringono anche a farlo in maniera troppo invadente, diciamo così. Sentite, e come sono organizzate le due giornate? Allora, dunque, il primo giorno ci saranno due compagne, una la mattina e una al pomeriggio, che ci racconteranno la loro storia e quindi a cui poi appunto lasceremo uno spazio, cioè dopo il racconto di ognuna si lascerà uno spazio per gli interventi e per il dibattito. E, mentre il secondo giorno ci sarà più una discussione, abbiamo pensato a due tavole rotonde, la prima sarà sul tema del carcere, della repressione, ma anche e soprattutto della solidarietà, delle forme di solidarietà dentro e fuori le mura del carcere, e a cui parteciperanno sia compagne che hanno fatto la tornata, sia una compagna che in realtà appunto si è attesa più sulla solidarietà alle persone prigioniere. E, mentre il pomeriggio affronteremo il tema, nella seconda tavola rotonda verrà affrontato il tema della memoria, quindi appunto riprendendo la questione del titolo dell'incontro, diciamo la conclusione andrà verso un ragionamento del insomma, cosa serve e come portare avanti questo lavoro di memoria. È molto bello anche, sì, no, dicevo, è molto bello anche il taglio che avete dato di storia orale. Diciamo che rispetto alla storia orale, il primo giorno ce lo immaginiamo come un momento in cui appunto lasciando molto spazio a una narrazione singola, immaginiamo che ci sia uno spazio per percepire tutto quello che la storia orale porta con sé, quindi la presenza fisica dei corpi in uno spazio, la possibilità di percepire appunto relazionando le proprie emozioni con le emozioni di chi narra, che per noi è un punto molto importante, riteniamo che sia cioè anche qui di inserirsi nel solco di quella che è stata la storiografia e memoria di femminista di sempre, nel senso che rispetto ad altri movimenti che hanno sempre teso avere dei singoli che raccontano per scritto le fasi di quel movimento, così il movimento femminista è un movimento orale, è un movimento corale che appunto ha sempre utilizzato questi strumenti, e quindi ci sentiamo che di scriverci in questo solco, seppur evidentemente consapevoli che le compagne che parleranno in queste giornate non si ritengono tutte femministe, e seppur consapevoli che la storia degli anni 70-80, perlomeno per quello che riguarda le organizzazioni rivoluzionarie, non è una storia caratterizzata di per suo dal femminismo, almeno in Italia. Sì, su questo argomento andrebbe, diciamo, raccontato e discusso tanto, bisognerebbe raccontare e discutere tanto, perché anche qui è stata silenziata una parte del femminismo che ha preso delle posizioni che erano molto vicine a quelle, chiamiamole così, della lotta armata, e invece non è proprio stata dimenticata. E poi c'è anche un altro aspetto che ha attraversato quegli anni, appunto quello del separatismo, perché c'erano le compagne che hanno preso parte alle organizzazioni armate e hanno fatto delle azioni, o comunque hanno partecipato a questo tipo di esperienza, che non erano affatto separatiste, no? E quindi anche questo penso che verrà fuori, sarà molto interessante. Noi vi ringraziamo tantissimo di questo incontro che avete organizzato, perché magari ce ne fossero di più, e noi verremo sicuramente. E prima di salutarci, ci potete ribadire il blog su cui si possono trovare le informazioni o comunque riferimenti per le giornate? Certo, allora il blog si chiama memoriacomeresistenza.loblog.org, e qui trovate il programma, la bibliografia e un po' di materiali, insomma, utili per essere preparati ancora di più all'incontro. E anche l'indirizzo. E anche l'indirizzo, assolutamente. Indirizzo, orari e informazione sui due grandi benefit che ci saranno durante l'iniziativa. Certo, bene, siamo molto contente e ci vediamo a Napoli. Grazie di tutto. Ciao, grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao.